50 domande su Gesù. Che cos'è la biblioteca di Nag Hammadi? È la collezione di 13 codici di papiro con copertine di cuoio che furono casualmente scoperti nel 1945 nell'Alto Egitto, vicino all'antico villaggio di Quenoboskion, a circa 10 km dalla moderna città di Nag Hammadi. Si conservano nel Museo Copto del Cairo e si sogliono designare con le sigle NHC, Nag Hammadi Codices. Alla stessa collezione si sogliono assegnare altri 3 codici già conosciuti dal secolo XVIII, che si trovano a Londra, Codex Askevianus, normalmente conosciuto come Pistis Sophia, a Oxford, Codex Brucianus, e a Berlino, Codex Berolinensis. Questi 3 codici, sebbene sono posteriori, provengono dalla stessa zona. Per codice si intende uno scritto con formato simile agli attuali libri e, a differenza del rotolo, consentiva di scrivere sulle due facciate e rilegare gli scritti anche in formati tascabili. I Nag Hammadi Codices furono confezionati circa nell'anno 330 e sotterrati alla fine del secolo IV o a principio del V, forse per non essere distrutti da qualche autorità ecclesiastica. Questi codici contengono una cinquantina di opere scritte in copto, la lingua egizia scritta con caratteri greci, traduzioni a volte non molto affidabili dal greco. Quasi tutte le opere sono di carattere eretico e riflettono le diverse tendenze gnostiche che in generale erano già conosciute perché furono studiate e confutate dai padri della Chiesa, in particolare da Sant'Ireneo, Sant'Ippolito di Roma e Sant'Epifanio. Il principale contributo di questi codici è l'accesso diretto ai testi gnostici e questo consente di verificare che effettivamente gli autori ecclesiastici contemporanei conoscevano bene quello che confutarono. Dal punto di vista letterario sono rappresentati i generi più diversi: trattati teologici e filosofici, apocalissi, vangeli, orazioni, atti degli apostoli, lettere, eccetera. A volte i titoli non sono quelli originali, ma sono stati aggiunti dagli editori tenendo conto del contenuto. Rispetto alle opere che sono classificate come Vangelo, bisogna osservare che assomigliano assai poco ai Vangeli canonici, giacché non presentano una narrazione della vita del Signore, ma le rivelazioni segrete che Gesù avrebbe fatto ai suoi discepoli. Così, per esempio, il Vangelo di Tommaso riporta 114 detti di Gesù, uno dietro l'altro, senz'altro contesto narrativo che alcune domande che a volte gli fanno i discepoli. E il Vangelo di Maria Maddalena narra la rivelazione che Cristo risorto le fa sull'ascensione dell'anima. Dal punto di vista delle dottrine, i codici contengono in generale opere gnostiche nate in un contesto cristiano. Sebbene in alcune, come l'Apocrifo di Giovanni, una delle più importanti, giacché è costituito da 4 codici, gli elementi cristiani sembrano secondari rispetto al mito gnostico che costituisce il loro nucleo. In questo mito si interpretano al rovescio i primi capitoli del Genesi, presentando il Dio creatore o demiurgo come un Dio inferiore e perverso che ha creato la materia. Ci sono anche opere gnostiche non cristiane che raccolgono una gnosi greco-pagana sviluppata attorno alla figura di Hermes Trismegisto, considerato il grande rivelatore della conoscenza, discorso dell'8 e del 9. Questo tipo di gnosi si conosceva in parte già prima dei ritrovamenti. Nei codici di Nag Hammadi è compreso addirittura un frammento della Repubblica di Platone. Nonostante la grande varietà di generi letterari e di contenuti dei libri di questa biblioteca, L'elemento che hanno in comune è che si tratta di opere più adatte per la speculazione religioso-filosofica e che sono estranee ai testi utilizzati nelle antiche comunità cristiane.